Martedì 25 gennaio la puntata di Salva Danaio delle 12:15 sarà dedicata a Telefisco, l'evento del Sole 24 Ore che approfondisce e spiega le novità della finanziaria 2011 con l'aiuto dei tecnici dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre il 26 gennaio Radio Day, una giornata dedicata alla finanziaria con interventi nei principali GR per aggiornarvi sui dubbi e i quesiti più frequenti. Info su radio24.it. In collaborazione con Wind Business.